Quando io sono stato inserito erano solo 5 ragazze, due legatrici, poi invece piano piano sono aumentate sempre di più. Diciamo, io ho sempre lavorato nel reparto artigianato, 60 anni che faccio questo lavoro, da quando avevo 11 anni. E nota dei cambiamenti nei ragazzi che arrivano qui? Alcuni veramente hanno recuperato parecchio, hanno migliorato, alcuni sono stabili, si impara a conoscerli, a capire le esigenze. È un lavoro manuale, ecco, non è difficile, è facile anche da fare. Sì, nella monotonia e nella semplicità è quello che lascia il tempo anche di pensare a se stessi. Adesso in questo momento stiamo recuperando gli scarti della carta. Lavoriamo tanto per gli uffici pubblici, per il tribunale, le biblioteche. Concorriamo come qualsiasi legatoria. Se lavori bene il cliente viene, se lavori male, se lavori Certo. bene ne guadagni uno, se lavori male ne perdi tre. Come nel mercato normale, insomma, del lavoro, ecco. Non pretendiamo la quantità, ma la qualità. Anche perché poi nel mondo del lavoro prevale quello, insomma, ancora. Da loro non viene chiesto una produzione enorme, però viene chiesto che quel poco che viene chiesto sia fatto bene. E noi puntiamo su quello, insomma, oltre al rispetto delle persone.